si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua in diretta con Si può fare, staremo insieme fino alle 10, subito i nostri contatti, se volete interagire con noi, la pagina Facebook, lo sapete, di si può fare, trattino Radio 24, account di Twitter è chiocciola si può fare 24, il mio account personale è chiocciola Ale Maurizi. Un'occhiata alle prime pagine, ai giornali di oggi, come sempre ogni sabato e ogni domenica mattina, ma come sempre ogni mattina su Radio 24, del resto, poi i nostri approfondimenti, le buone notizie. Ve lo dico subito, parleremo di immigrazione. Il presidente del Consiglio Matteo Renzi dice che non è tanto una questione di ripristinare Mare Nostrum, il pattugliamento umanitario per il salvataggio di vite umane nel canale di Sicilia, rispetto all'altra missione, quella giudicata più fallimentare, Triton, missione diciamo di polizia più vicina alle coste italiane. Non è tanto questo, ma è il caos che c'è in Libia, su cui bisogna intervenire per frenare le ondate e gli arrivi. Si riapre la questione del corridoio umanitario per i profughi e allora ecco la proposta, c'è una petizione online di cui parleremo più avanti, una petizione portata avanti da avvocati, esperti di diritti umani, ma anche abitanti dell'isola di Lampedusa, che dicono sia il Vaticano a concedere visti di ingresso per i soli profughi, per quelli che vengono dalla Siria o dall'Eritrea, insomma per le persone che vengono dai luoghi di guerra, sia il Vaticano a concedere questi visti e poi a smistare successivamente nei vari paesi d'Europa, in base ai legami familiari, alle lingue e alle prospettive di lavoro anche che ci possono essere, insomma Germania, Francia, Norvegia, ovunque, quindi non solo l'Italia. Questa la proposta di cui parleremo più avanti. Adesso, come detto, andiamo sui giornali di oggi, vai! Perché notizie più costose, più fresche, più narrate. E allora oggi sulle prime pagine dei giornali troviamo titoli relativamente al caos che si è vissuto ieri, ma non solo ieri, alla Camera, con lo scontro tra la maggioranza e le opposizioni che minacciano l'Aventino, lo stanno già facendo, uscire dall'aula durante l'esame del testo di riforma costituzionale. E poi però anche la situazione in Libia che va peggiorando con l'avanzata dell'ISIS in diverse città libiche e con i riflessi, dice, poco fa, anche per quanto riguarda poi possibili sbarchi, nuovi sbarchi che non sono mancati anche in queste ore in Italia. Poi c'è spazio anche per altre notizie, vabbè, dati economici per esempio, con la fine della recessione in Italia e invece il più 0,7% di PIL in Germania. Ma cominciamo con il Corriere e il titolo principale è questo: prova di forza sulle riforme, la legge sul nuovo Senato, dissensi anche da parte della minoranza del PD. Il Premier vuole chiudere oggi. Caos e accuse in aula, le opposizioni lasciano. Renzi dice noi votiamo lo stesso. L'altro titolo, come dicevamo, Libia, avanza lo Stato Islamico, l'Italia pronta ad agire con le Nazioni Unite. Cominciamo a vedere invece appunto il primo tema, quello politico. Ci sono due interviste sul Corriere a confronto, una a Giovanni Toti di Forza Italia, che parla insomma della situazione, intanto della questione di Fitto. Raffaele è stato smentito, la smetta di delegittimarci, serve unità, l'ex governatore dimostri di non avere altri fini. E poi insomma, questo per quanto riguarda il tema interno a Forza Italia, ma la rottura del patto del Nazareno e anche il fatto che la stessa Forza Italia abbia deciso di passare all'opposizione della riforma del Senato, che invece aveva votato nel precedente passaggio proprio al Senato. Sentiamo come se la cava Toti. Dice le riforme erano una parte importante di un processo di condivisione politica con il PD che escludeva decisioni a colpi di maggioranza, ma con la rottura del metodo operata per eleggere il capo dello Stato, Renzi ha rinnegato tutto il percorso fatto fin qua, mostrando un partito che torna all'arroganza di sempre. Il ragionamento è quello che Forza Italia va ripetendo da giorni, da quando è stato appunto eletto Mattarella. di fatto si antepone alla valutazione di merito della riforma costituzionale, la fine del bicameralismo paritario, la riduzione del numero di senatori, il fatto che non siano più eletti, eccetera, eccetera, le nuove funzioni, insomma, anche della Camera. A tutto questo si antepone un discorso puramente politico, la rottura del patto del Nazareno, quindi la fine di questa fedeltà di Renzi con Berlusconi, un calcolo politico che per Forza Italia vale il mancato appoggio alla riforma costituzionale. E questo vado a spiegare però agli elettori, verrebbe da dire, perché insomma, chi ha fatto opposizione a questa riforma fin dall'inizio, come il Movimento 5 Stelle ma anche la Lega o SEL, ha delle ragioni di merito per non votare questa riforma costituzionale. Forza Italia un po' meno. Prosegue Toti, però, dice: con la giornata di ieri le riforme di oggi, lui scrive oggi ma ieri, le riforme, anche se Renzi dovesse trovare una maggioranza che le approva, sono fallite nel loro spirito. Poi appunto Renzi vi sfida, decideranno gli italiani con il referendum. Renzi pensa di poter gestire il governo, la maggioranza e il Parlamento come facevano i furbetti del quartierino, dice Toti, alzando sempre la posta in gioco in un continuo azzardo. Noi non abbiamo paura del referendum, però poi appunto agli elettori deve andare a spiegare che devono votare no ad una riforma che tu hai votato almeno una volta, la riforma del Senato. Questo per quanto riguarda Toti. Poi c'è a fianco un'intervista a Gianni Cuperlo, uno dei leader della minoranza del PD, che anche lui se la prende con Renzi: la carta non si cambia da soli, bisogna ricucire con Forza Italia e gli altri. La minoranza del PD, che era fortemente contraria al patto del Nazareno, dice che Renzi deve ricucire con Forza Italia, e anche qui c'è abbastanza di strumentale, di strumentalizzazione. Comunque vediamo Cuperlo. Lui per primo dice: a proposito di Renzi, ha sempre detto che le riforme si scrivono assieme, non per una questione di bon ton, ma perché le regole condivise rendono la democrazia più solida. Verissimo. Quindi anche qui una questione, diciamo, di metodo. Nessuno parla più del merito di questa riforma, gli italiani non sanno forse più nemmeno di cosa stiamo parlando. Invece sarebbe il caso si parlasse di questo. Andiamo avanti. Dopo la rottura del patto del Nazareno bisognava cambiare alleanze? La domanda e la risposta di Cuperlo: bisogna prendere atto che il quadro è mutato, per mesi si è detto che l'accordo impediva ogni cambiamento che non fosse concordato con Forza Italia, saltato quell'accordo ci sono gli spazi per migliorare quel che è giusto migliorare, coinvolgendo nel percorso costituente anche altre forze, tra cui il Movimento 5 Stelle. L'ostruzionismo, dice Cuperlo, è una tattica parlamentare, quando impedisce la libertà di parola o di voto. Lo strappo non è con il regolamento della Camera, con l'etica della democrazia. Detto ciò, sono una forza che è giusto coinvolgere e portare al confronto di merito. Anche queste parole che abbiamo sentito milioni di volte, coinvolgere il Movimento 5 Stelle, il PD, non c'è praticamente mai riuscito. Quindi o la smettessero, verrebbe da dire, di invocarlo questo dialogo con il Movimento 5 Stelle, oppure che provassero concretamente a farlo. Ma questa è una storia che andrà avanti tutta la legislatura, garantito. Sole 24 ore, dicevamo, i dati economici, il PIL europeo cresce, l'Italia che tiene e la ripresa che spinge le borse. Intanto un commento di Carlo Bastasin: Juncker o Merkel, chi governa l'Europa? Il presidente della Commissione Juncker ha fatto sapere che c'è la necessità di muoversi verso meccanismi concreti di coordinamento della politica economica. Se non si procederà in questa direzione, l'euro sarà intrappolato in uno scenario di bassa crescita, inflazione e scarsa capacità di produrre posti di lavoro. Dice il Sole 24 Ore: come avevamo previsto, Juncker intende rompere l'inerzia di una gestione dell'euro in cui la gerarchia finanziaria tra i paesi ha dato forma ad una gerarchia politica. C'è fiducia nel fatto che la gestione di Juncker possa mettere una parola fine al tema dell'austerità, in qualche modo solo dell'austerità. Però anche questo è un tema di cui abbiamo parlato diverse volte, e ne vedremo gli esiti, i risultati, se ci saranno. Però in effetti Juncker, qualcosa di esplicito è stato detto da Juncker. Invece, a proposito della situazione italiana, la parodia dell'Aventino è la sindrome di Napoleone, è il commento di Paolo Pombeni, sempre sulla prima pagina del Sole 24 Ore, che dice: diciamolo con chiarezza, Berlusconi che fa scatenare i suoi a boicottare boicottare le riforme, che sino a ieri aveva tranquillamente sostenuto, è abbastanza patetico. Però anche Renzi, che si fa prendere dalla sindrome di Napoleone, cioè di quello che a dispetto di tutto deve passare di vittoria in vittoria, non è che faccia la figura dello statista. E questo per quanto riguarda Il Sole 24 Ore. Torniamo invece ad altre notizie. Sulla pagina di Repubblica abbiamo intanto telefonata shock bufera sullo titolo, lo sapete. Queste intercettazioni pubblicate da Repubblica, nelle quali Lotito con un interlocutore al telefono si vantava, insomma, diciamo, di decidere più o meno tutto lui quello che succede nel calcio italiano e nella Lega Calcio, poi sai, di lì a vantarsi al telefono ad essere vero quello che viene detto ce ne corre. Però tant'è, interviene il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Graziano Del Rio, che dice il calcio deve cambiare. Pure Tavecchio critica il presidente della Lazio, l'imbarazzo anche da parte del CONI. Poi, prima di tornare a temi politici, qualcosa su Sanremo. A Sanremo, il bel paese con il Plaid, il festival calmo del Vigile Conti, scrive Stefano Bartezzaghi. A modo suo, molto suo, quello di Conti pare proprio avviarsi ad essere un festival sovversivo. Sovverte almeno quella che finora si era creduta una legge costituzionale e inemendabile dello spettacolo, per la quale il successo viene da grandi trovate d'autore, conduzione glam, colpi di scena, amplificazione di ogni incidente e deviazione dalla norma. E invece no, i grandi ascolti di Sanremo sono ottenuti per via contraria, la calma che piace di Carlo Conti, piace al pubblico sicuramente. Il commento di Stefano Folli invece, sempre su Repubblica, sulla situazione politica e sull'impasse alla Camera delle riforme, però questo lo leggiamo dopo il traffico. Nuovo buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori, eccoci qua, ben ritrovati. Allora, dicevamo, il commento di Stefano Folli su Repubblica è questo: tutti i rischi della strategia del plebiscito, il referendum confermativo per quanto riguarda la riforma del Senato, diventa per Renzi un'arma politica, sì, ma a doppio taglio. Perché, scrive Folli, riformare la Costituzione come se si trattasse di convertire un decreto legge entro 60 giorni si può fare, non è illegittimo, ma le conseguenze politiche rischiano di essere pesanti. Si può anche sostenere che alla seduta a Fiume non c'erano alternative e che l'ostruzionismo non mira a correggere in qualche punto la riforma, ma solo a insabbiarla. C'è del vero anche in questo argomento, ma non si sfugge alla sensazione che a Montecitorio sia mancata una regia lungimirante. Quindi, diciamo, anche un pensiero non ostile a Renzi come quello di Folli, un punto di vista come questo qua, adesso mette in evidenza la defiance, diciamo così, le defiance della strategia renziana alla Camera in queste ore. Forse occorreva da parte del governo, prosegue Folli, una maggiore capacità di smussare gli angoli, prendendo atto della realtà. In fondo, il patto del Nazareno, al di là della fantapolitica, ha rappresentato una tregua politica durata circa un anno, una tregua da cui il Presidente del Consiglio ha tratto significativi benefici. Un'altra piccola, diciamo, questione politica riguarda le elezioni regionali, le prossime elezioni regionali, il caos delle primarie del PD in Campania. Manca a farla apposta, insomma, non si trova un accordo su queste primarie. C'è la candidatura di De Luca che però non raccoglie il quorum più alto di consensi, diciamo così, dentro l'establishment del PD, e spunta la candidatura di Raffaele Cantone, attuale presidente dell'Authority anticorruzione. Cantone, che si è distinto per un lavoro significativo, intanto, diciamo, per la questione su Expo, dove la ripartenza dei lavori dopo lo stop per tutti quegli scandali, appalti bloccati, non c'era un'azienda che non avesse avuto un'inchiesta e Cantone, diciamo, è riuscito a garantire trasparenza ma anche la ripartenza dei lavori, questo almeno quello che dicono gli addetti ai lavori. E poi vabbè, insomma, anche il lavoro che sta facendo sul tema della corruzione nella pubblica amministrazione sembra un lavoro positivo. Però c'è stato un colloquio tra Matteo Renzi e Raffaele Cantone qualche giorno fa per sondare, scrive Repubblica, la disponibilità ed eventualmente pressare in via definitiva l'attuale capo dell'anticorruzione ed ex PM napoletano ad assumere il ruolo di candidato unico alla regione per quanto riguarda il PD. Un dialogo franco e cordiale ma senza fumata bianca, scrive Concita Sannino da Napoli. Non c'è stata fumata bianca, Cantone semplicemente non ha intenzione di lasciare il lavoro all'anticorruzione, non sarebbe serio, aveva detto in passato e sembra lo abbia ripetuto, mollare tutto adesso e cominciare un lavoro da governatore. Questo al momento lo stato dell'arte. Dunque, adesso vediamo qualche altro titolo di altri giornali. Renzi, vittima delle renzate, scrive Libero per esempio, Parlamento in rivolta, eccetera eccetera. Adesso però fatemi leggere questa cosa qua, no, dove non lo trovo più, l'ultimo italiano rimasto in Libia. Torniamo un attimo alla Libia perché è un'intervista curiosa questa qua, eccola sul Corriere. Insomma, l'Italia è l'ultimo paese ad avere ancora una rappresentanza diplomatica, diciamo, in Libia, e c'è anche la storia di Bruno Dal Masso. Dopo 40 anni in Libia me ne vado, faccio la valigia, parto anch'io. L'imprenditore Dal Masso, custode tra l'altro del cimitero italiano, questa volta lascio tutto e torno in Italia, è arrivato il momento di andare via. Detto da uno che ha disobbedito a tutti gli ordini di evacuazione negli ultimi 40 anni fa impressione, scrive il Corriere. Queste sono le parole del signor Dal Masso, 82enne italiano rimasto in Libia negli ultimi 40 anni ma che adesso farà le valigie e se ne va. Ora la situazione è proprio brutta, l'aria si è fatta pesantissima, da un anno e mezzo vivo ritirato in casa, risponde dalla sua abitazione di Tripoli Dal Masso, uno degli ultimi italiani rimasti in Libia, dove ha passato quasi metà dei suoi 82 anni insieme alla moglie etiope. L'ex imprenditore a cui Gheddafi tolse il passaporto da anni è il custode del cimitero che ospita i resti di oltre 6.000 italiani. Rimpiange Gheddafi? La domanda, e lui risponde: Gheddafi ha fatto tanto male, ma quelli che ci sono ora fanno mille volte più male. Poi il titolo è: blindati e vessilli neri, le avanguardie del califfo sulle rive del Mediterraneo. Insomma, sono i scenari inquietanti che riguardano la Libia. A proposito, sulla Stampa, credo sia, eccola qua, ci sono, diciamo, un po' di notizie in merito. E anche il titolo della prima pagina è questo, attenzione perché è importante: caos Libia, l'Italia pronta ad intervenire. Cioè, Palazzo Chigi pronto a chiedere il comando di un'operazione delle Nazioni Unite. Questa è una cosa che si sussurra a bassa voce ma che potrebbe diventare presto una proposta concreta. Matteo Renzi, due sere fa, il Consiglio europeo ha deciso di porre con forza la questione Libia per scuotere il resto dell'Europa. Esiste il problema dell'Ucraina, avrebbe detto Renzi, ma anche un'emergenza in Libia della quale tutta l'Europa deve farsi carico. A Palazzo Chigi sanno che dal punto di vista della deterrenza diplomatica siamo quasi all'anno zero. La missione ONU guidata dallo spagnolo Bernardino León in Libia va avanti ma senza un forte investimento internazionale, fa sapere il presidente della Commissione Difesa al Senato Nicola Latorre, e per questo l'intervento di Renzi a Bruxelles riveste un grande significato. Palazzo Chigi a medio periodo coltiva obiettivi non dichiarati, non dichiarabili, una missione di peacekeeping con le bandiere ONU ma guidata dall'Italia, e poi una conferenza di pace a Roma. Va bene, siamo in chiusura. Sì, siamo in chiusura. Allora c'è spazio però per lasciarvi con una buona notizia. Vai. And now the good news. E questa volta andiamo in Puglia, dove da qualche tempo è operativo un sistema che riguarda la sanità pugliese, insomma un sistema di trasparenza che promette anche di aiutare i cittadini pugliesi che dovranno avere a che fare soprattutto coi pronto soccorso di questa regione, un sistema che monitora in tempo reale sul sito della regione i tempi di attesa nei pronto soccorso della regione Puglia. Tu vai e guardi quanto tempo c'è d'attesa per ogni codice bianco, rosso, verde, quello che è nel pronto soccorso dove decidi di recarti, e puoi scoprire anche quali sono i tempi di attesa previsti, così puoi anche scegliere di andare dove l'attesa è prevista in un tempo minore. Un piccolo passo in avanti di servizio da parte della sanità in regione, in Puglia. Una buona notizia. Vai, ci fermiamo, torniamo dopo il giornale radio. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Because you know I'm all about that bass, about that bass, bass, bass. And no, I won't be no stick figure, your silicone Barbie doll. So if that's what you're into, then go ahead and move along. Bass, bass, bass, bass, bass. Hey. E di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, che aveva il microfono spento. Sono emozionato perché è San Valentino, sono emozionato per quello. Cari ascoltatori, eccoci qua di nuovo in diretta. Insomma, stiamo insieme fino alle 10, 800 24 00 24. San Valentino, ma anche Sanremo. Tutti i santi, insieme, diciamo. Tutti i santi del paradiso. Non si può scherzare su niente oggi, giusto? Bisogna lasciarli stare i santi. Si può scherzare. Si può scherzare su tutto, su anzi, tutto. Si deve. San Valentino è San Valentino. Poi certo, San Valentino e Sanremo insieme sono veramente una tristezza, perché uno Sanremo bisogna guardarlo insieme a qualcuno. San Valentino, se uno è da solo. Infatti mi hanno invitato a un flash mob sui diritti LGBT oggi a Milano alle 15 in, sì, Piazza della Scala. Uniti contro San Valentino, no? No, no, è un flash mob per dire anche le persone omosessuali del mondo LGBT comunque festeggiano San Valentino come tutti, e ho pensato che fosse una bella idea, perché comunque se il giorno di San Valentino vai a un flash mob vuol dire che sei single, perché se sei accompagnato, secondo me fai qualcos'altro, ma vai a fare una, sì, merenda a lume di candela, non credo che vai a fare un flash mob, quindi mi sembra un bellissimo posto dove andare. Noi, giusto, parleremo anche noi di un San Valentino particolare, così un'altra forma d'amore più sociale, ne parleremo tra poco, con un appuntamento bolognese. E che dire, vogliamo dire, ma, subito di... Vai. No, sul sociale avevo pensato... Sì, perché ho visto che c'è una app per far finta di avere un fidanzato o una fidanzata, ovviamente. E apparentemente sembra una cosa già vista. In realtà il bello di questa app è che tu ti iscrivi, scegli che tipo di fidanzato vuoi, quindi l'età, il nome, gli interessi, se gli piace di più lo sport o le serie televisive, sì, e poi questo inizia a mandarti dei messaggini. Ma chi ti manda dei messaggini è una persona reale, quindi in realtà non è un cosiddetto bot che dà delle risposte in automatico e quindi ti stufi subito. E come funziona questo meccanismo? Che tu in realtà mandi i tuoi messaggini, ma chi ti risponde non è sempre la stessa persona, perché dall'altra parte ci sono 200.000 persone che ci lavorano all'interno di questo di questa app, e quindi ti danno delle risposte che ti stupiscono, perché nel momento che tu parli della tua serie TV preferita, questo ti dice anche magari: no, a me non piace perché alla puntata 3 ha fatto quella cosa lì piuttosto che quell'altra cosa. E mi sembrava, appunto, sempre per continuare sulla scia della singlitudine il giorno di San Valentino, mi sembrava una bella notizia. L'hai provata? No, non l'ho provata. C'è una giornalista che l'ha provata e che racconta, appunto, poi del problema del fatto che siccome sono persone reali dall'altra parte, c'è il rischio che ci si innamori realmente, solo che dall'altra parte sono delle persone che cambiano, perché ovviamente devono fare dei turni, perché non rispondono a un'unica persona, rispondono a più persone. Niente, mi sembra bello sia da una parte sia dall'altra. Mi piacerebbe anche fare quello che risponde ai messaggini. Ti devo dire una cosa, sai che mi hanno nominato ambasciatore? No. Quindi io d'ora in poi, io mi basta, sa che vi lascio, cambio ti chiamo mestiere, ambasciatore, ti chiamerò ambasciatore d'ora in poi. Mi hanno nominato ambasciatore di che cosa? Di un evento che ci sarà il 27, 28, 29 marzo, il Future Job Festival. Ti ricordi Massimo Temporelli, certo, il nostro uomo dei mestieri, certo, del futuro? Abbiamo fatto con lui un sacco di appuntamenti. Ecco, tutto quello era propedeutico a un festival che stanno organizzando a Grazzano Visconti a Piacenza, in cui si indagherà su quali sono i lavori del futuro su cui puntare, su cui scommettere, da pilota di droni a contadino urbano, da artigiano digitale a comunicatore generalista. Io me ne ricordo alcuni di questi di cui ci aveva parlato. Sì, dei lavori stupendi. Sì, sì, sì. Quindi chi ha, chi ha come noi, almeno io, superata la quarantina, se non c'ha un lavoro è un problema. Oppure magari ha dei figli che stanno crescendo e vuol capire dove bisogna andare a parare. Oppure, insomma, chiunque sia interessato a fiutare il futuro. Ecco, questo è un appuntamento bello, importante. Non si parla mai del futuro. Tu non hai problemi di lavoro in futuro. Sei no. ambasciatore. Ormai esatto, sei diventato ambasciatore. Lavoro. Ma ti danno anche un'ambasciata? Come funziona? Forse probabilmente sì. Penso di sì. Una sede a Grazzano Visconti. Puoi fare dei visti anche? Giusto, stai già anticipando il prossimo argomento. Qualche cosina mi hai insegnato, voglio dire, in due anni di stage qui. Parliamo infatti tra poco di una proposta, sia il Vaticano a concedere i visti per l'ingresso dei profughi. Oppure la nuova ambasciata in di Alessio Maurizi, che esatto, è un'ambasciata importante dove si possono fare richieste, ovviamente. Non ho ancora questa autorità di emettere visti, il Vaticano ce l'avrebbe. È una proposta che si sta facendo strada in questi giorni, in cui si parla di nuovo di immigrazione. E lo stesso Presidente del Consiglio Renzi ha detto, adesso sto parlando seriamente, che non è tanto una questione di ripristinare Mare Nostrum, cioè il pattugliamento umanitario nel canale di Sicilia, al posto di Triton, la missione diciamo più di polizia, ma è il problema relativo alla Libia, al caos che c'è in questo paese, e insomma bisogna pensare a un corridoio umanitario per far passare solo i profughi. Però questa proposta nessuno sa come concretizzarla. Allora noi abbiamo scovato un gruppo di avvocati, esperti di diritti umani, nonché abitanti dell'isola di Lampedusa, che questa proposta ce l'hanno. Ne parliamo tra poco, però prima il gioco. Il gioco, il esatto, gioco, esattamente. 800240024, vai. Allora, il gioco, se ho capito bene, noi quello che chiediamo oggi è di canticchiare la vostra canzone di Sanremo preferita. Cioè dovete perdere la faccia ai microfoni di Radio 24 e cantare. E valgono tutti gli ultimi 65 anni di Sanremo, sì, non solo quello di quest'anno, anzi direi soprattutto quelli indietro. Dal blu dipinto di blu, esatto, fino a si può dare di più. Si può dare di più fino al vincitore Caccamo tra i giovani, che è il vincitore di ieri sera, stanotte direi, all'1:30, mentre vedevo che lo premiavano, dicevo: ma io devo andare in radio fra 4 ore, su, sbrighiamoci. Cari ascoltatori, vi chiediamo di perdere la faccia qua di fronte a noi stamattina e di canticchiare la vostra canzone preferita di Sanremo. La canzone più divertente e l'esibizione migliore, a nostro giudizio insindacabile, vince anche oggi qualche cosa, e cioè i biglietti per la mostra Wim Wenders America, organizzata dall'Alfai a Villa Panza a Varese, una bella mostra fotografica di questo straordinario regista che è Wim Wenders. E vi chiediamo anche di dire chi avreste invitato voi al Festival di Sanremo. Così un appendice, vai. Sì, se foste voi diciamo il direttore artistico, chi avreste invitato? Non intendiamo solo cantanti, che possono essere i vostri cantanti preferiti, ma anche per esempio tutto il filone dell'eccellenza. Abbiamo visto la Cristoforetti. Ma hai visto come giocava col microfono la Cristoforetti? Non l'ho vista la Cristoforetti, ma sono perso. Proprio ho visto la famiglia con 16 figli e ho perso la Cristoforetti. Pensa come sono messo. E ti sei dato da fare dopo aver visto la famiglia 16 figli, hai detto: cara, siamo molto indietro. Senza darmi, che lascia casa per vivere così. Dall'Africa, Africa, Africa, Africa fino all'Europa, Europa fino all'Africa. Tra il rammarico per la perdita di vite umane, come ogni volta succede quando c'è una traversata nel canale di Sicilia, e invece dall'altra parte la denuncia dell'invasione degli immigrati nel nostro paese, vengono in Italia per andare in Europa, possibile che non ci sia una terza via, possibile che non ci sia una soluzione? C'è una proposta concreta che mira a creare un corridoio umanitario passando attraverso il Vaticano, una petizione di cui parliamo con una delle promotrici, che è Paola La Rosa, avvocato di Palermo, abitante dell'isola di Lampedusa. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, di corridoio umanitario si parla, ne ha parlato anche Renzi, il Presidente del Consiglio, per quanto riguarda i profughi, il tema dei profughi in particolare, tra tutti gli immigrati che tentano la traversata, rischiano la vita pur avendo poi la possibilità di avere riconosciuto, una volta che arrivano, il diritto a stare, insomma, in Europa, perché vengono da paesi dove ci sono guerre, conflitti, come è la Siria, come è l'Eritrea, come adesso per esempio anche la Libia. Come realizzare tutto questo? Scarseggiano le proposte. Voi avete una proposta che tira in ballo il Vaticano e che è una petizione. Ci può raccontare di che si tratta? Sì, sostanzialmente si tratta di una soluzione che esiste già in base al diritto vigente, alle norme di diritto internazionale e in particolare alla convenzione che quasi tutti gli stati del mondo hanno sottoscritto, che riconosce il diritto a chiedere asilo. E sostanzialmente noi sappiamo, dovrebbero saperlo tutti, che per fare richiesta d'asilo non è necessario giungere nel paese nel quale si vuole chiedere asilo, ma basterebbe teoricamente entrare nell'ambasciata del paese nel quale si intende al quale si intende chiedere asilo, ambasciata che potrebbe trovarsi paradossalmente o nello stesso paese da cui si intende fuggire o comunque negli stati immediatamente confinanti con esso. Quindi, per fare un esempio, chi fugge dall'Eritrea potrebbe semplicemente marcare il confine con l'Etiopia e andare a chiedere asilo presso l'ambasciata italiana. Cosa che in realtà succede, nel senso che qualche mese fa è uscita la notizia che all'ambasciata italiana in Etiopia giacciono totalmente inevase oltre 700 domande di asilo. Quindi sostanzialmente la legge già lo consente e evidentemente c'è una volontà politica da parte non solo dell'Italia, ma non solo degli stati europei, ma degli stati di tutto il mondo, di non mettere in atto questa procedura. Allora, quello che noi abbiamo fatto con la nostra con il nostro appello è stato quello di chiedere al Papa, non in quanto autorità religiosa, ma in quanto capo di uno Stato, capo dello Stato città del Vaticano, un'azione meramente simbolica, chiaramente, perché non auspichiamo che sia il Vaticano a risolvere, uno Stato così piccolo, tra le altre cose, a risolvere il problema globale dell'immigrazione, ma chiedevamo un'azione simbolica che dimostrasse agli altri Stati e soprattutto all'opinione pubblica che si può fare. Si possono fare due cose. La prima cosa è permettere a chi fugge da tirannie, da guerre, di chiedere asilo, quindi di inoltrare la domanda di asilo direttamente ai nunzi apostolici, ossia a quelli che sono gli ambasciatori. Alle sedi vaticane, diplomatiche vaticane nei vari paesi, per esempio in Siria o appunto in Eritrea. Esattamente. Ripeto, un'azione simbolica, quindi da fare con un ristretto numero, magari rivolto proprio alle persone più vulnerabili, alle famiglie, ai minori, alle donne. Ma ci sarebbe anche un'altra possibilità, perché con questa prima soluzione chiaramente a concedere asilo dovrebbe essere lo Stato del Vaticano, il che presenta anche un grande vantaggio, nel senso che lo Stato città del Vaticano non ha aderito al Trattato di Dublino, che impone agli stati sostanzialmente di, lo dico in maniera molto semplice, di tenersi i profughi che chiedono asilo nel proprio paese, quindi il Vaticano non sarebbe vincolato al Trattato di Dublino. Oppure, e quindi sostanzialmente una volta ottenuto asilo le persone potrebbero anche scegliere di andare a vivere in altri paesi, cosa che in questo momento non è possibile, ma c'è anche un'altra possibilità, un'altra soluzione, cioè il Vaticano potrebbe sempre tramite le ambasciate concedere ai profughi un visto di ingresso a città del Vaticano, allo stato di città del Vaticano. Al Vaticano sono presenti oltre 140 ambasciate di altri paesi, sostanzialmente tutte le e quindi potrebbe diventare una specie di hub, di luogo di smistamento verso altre regioni, perché noi sappiamo che verso altri stati europei, la Germania, la Francia, la Danimarca, la Norvegia, sappiamo che i profughi sbarcano in Italia, ma spesso per questioni di tradizioni, di famiglie, di pezzi di famiglia che stanno già in altri paesi, non hanno intenzione magari anche per il welfare o anche per possibilità occupazionali. A volte si tratta anche di persone che hanno una professione, a differenza dell'immigrazione, diciamo, quella economica o che viene da altri paesi, potrebbero essere intenzionati ad andare oltre l'Italia. E questo, diciamo, creare in Vaticano questa specie di hub di smistamento potrebbe consentire anche questo. E questa vostra proposta potrebbe anche consentire di distinguere appunto tra l'immigrazione dei richiedenti diritto d'asilo, dei profughi, su cui è necessario avere una apertura, perché parliamo di persone che vengono da luoghi di guerra, al resto. Cioè, se si vuole essere, come dire, se si vogliono controllare le frontiere in maniera rigorosa, bisogna però consentire a chi viene da luoghi di guerra di entrare. E questo attualmente non è facile, perché le persone devono affrontare il viaggio con tutti i rischi che ci sono, e spendendo tra l'altro diverse migliaia di euro ogni volta per farlo questo viaggio. Per morire spesso, sì. È vero. Ma le posso fare? Però, sì, una prego, cosa, prego. Ribadisco che tutta questa nostra proposta ha una funzione chiaramente simbolica. Non chiediamo al Vaticano di farsi carico dell'intero problema, ma semplicemente di dimostrare. Potrebbe essere però il modo di aprire una discussione. Tra l'altro, mi scusi, il Vaticano sì. Vi ha anche. Avete avuto una risposta? Sì, un po' laconica, nel senso che ci è stato detto che l'ipotesi non è praticabile, non ci è stato spiegato sì. Però se presenta dei problemi di carattere giuridico o, come noi riteniamo, quantomeno con riguardo agli altri stati, non ci sia una mera ragione politica, cioè quella che però sarebbe una volta sì, aperta questa porta sarebbe bello che il Papa invece dicesse qualcosa. Il Papa, che insomma è un grande comunicatore e che ha preso l'abitudine anche di telefonare direttamente a un sacco di gente, che non dico che telefonasse a voi, animatori di questa petizione, ma perché no? Perché no? Sarebbe interessante. No, guardi, a noi basterebbe capire se questa soluzione che noi proponiamo è fattibile, e se è fattibile e non la si fa, capire il perché. Non ci teniamo molto alla maternità, perché siamo due donne e un uomo, di questa proposta. Vorremmo semplicemente che si incominciasse a discutere di una soluzione che non è Mare Nostrum, che pure salvava vite umane, che non è esternalizzare i confini come propone adesso il nostro Presidente del Consiglio, cioè rimandare il problema in Libia. Non si capisce bene come si possa al contempo chiedere agli italiani di lasciare la Libia e auspicare invece che i migranti vi restino, ma che si incominci a parlare davvero di una soluzione globale, perché ripeto, questa soluzione non coinvolge solo i paesi europei, coinvolgerebbe tutti i paesi del mondo, Canada, Stati Uniti, paesi del Sud America, cioè tutti quelli che hanno le ambasciate nei paesi presso i quali appunto i profughi potrebbero rivolgersi per chiedere asilo. Paola, tra l'altro lei è una storia particolare la sua, perché oltre ad essere appunto animatrice di questa petizione insieme ad altri avvocati, esperti di diritti umani e quant'altro, ha deciso di trasferirsi da Palermo a Lampedusa per aprire un bed and breakfast, è così? Sì, è così. Come mai questa decisione? Ma io sono molto molto legata a quest'isola perché la frequento da praticamente da quando sono nata, nel senso la prima volta che i miei genitori mi hanno portato qui avevo poco più di 6 mesi, quindi l'ho sempre considerata un po' casa mia. E a un certo punto ho fatto quello che sognavo di fare da tanto. Io e il mio compagno abbiamo lasciato tutto, ci siamo trasferiti qua, abbiamo trasformato la mia casa di villeggiatura in un B&B e non nascondo che l'idea era un po' quello di ritirarsi a vita privata e trovare, e invece ci siamo trovati al centro di, oserei dire, nell'ombelico del mondo, per cui ci siamo trovati in mezzo a questo, testimoni oculari di questa, di questo, chiamiamolo, fenomeno, e chiaramente ci siamo sentiti obbligati in qualche modo a partecipare attivamente a questo, anche nel cercare una soluzione a questo problema. Quando si vive qua è praticamente impossibile. Beh, si è per forza, certo, sollecitati su un tema e su una realtà concreta come questa. Grazie intanto per essere stata con noi, Paola La Rosa. No, grazie a voi. Buon grazie sabato. Mille. Avvocato di Palermo, trasferitasi a Lampedusa, dove ha aperto un bed and breakfast, animatrice di questa petizione che dice sia il Vaticano ad intervenire concretamente su questo tema dei profughi. Una proposta che ha il merito, diciamo, di tentare di aprire una strada di concretezza. Anche se avete sentito, non è semplice. No. 800 24 00 24, cari ascoltatori, che ne pensate? Traffico? Anzi no, pausa, torniamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, 800 24 00 24, ben ritrovati. Inizia il momento delle canzoni. Vediamo, vogliamo sentirvi cantare. Abbiamo Maria che ci chiama da Ancona. Buongiorno. Buongiorno. Complimenti per la trasmissione, siete meravigliosi. Grazie Maria, non esageri. Perché allora, siamo in radio, siamo in radio può dire meravigliosi, perché non ci vede. Sì. Ma le voci vogliono dire moltissimo. Brava Maria, e la sua di voce cosa ci dice? La mia è una voce di 80 anni. Bella. La settimana scorsa, il 1 febbraio. Allora, alla ragazza gli ho detto 60 perché avevo paura che non mi facessero passare. Grandissima Maria, auguri intanto, è un po' in ritardo. Grazie. Voce abbastanza da, lei vuol cantare secondo me, voce cristallina. Ho scelto la canzone quando. Ma noi siamo tutti orecchi. Allora, dimmi quando tu verrai, dimmi quando, e baciando mi dirai, non ci lasceremo mai. Beh. Se vuoi dirmi di sì, lo puoi dire perché non ha senso per me la mia vita senza te. Dimmi quando tu verrai. Straordinaria Maria. Dimmi quando. Senti che anche Carlo si è scaldato. Mi dirai. Maria va avanti, Non ci lasceremo mai. Signora, complimenti. Le abbiamo messo anche la base. Non ce l'ho la base. Vi volevo solo dire un'altra cosa. Sì, ci dica, certo. Bravissima comunque Maria, complimenti. Il giorno del mio compleanno non potevo dormire, ho acceso la radio di notte e ho ascoltato la vostra trasmissione. Si può fare. Ma noi se l'avessimo... Ho fatto una canzone intitolata Si può fare. Ha composto una canzone per noi? Sì. Voi, la canzone è intitolata Si può fare. Ma lei l'aveva composta prima? Positive. No, scusi Maria, non ho capito. Lei la canzone l'aveva già composta prima o l'ha composta dopo che ha sentito il programma? L'ho composta dopo che ho sentito il programma. Quindi in qualche modo è stata, non dico dedicata a noi, ma evocata. Un po' a noi, un po' all'insonnia. Come mai non riusciva a dormire? Esattamente. Ma ce la vuol cantare anche questa? Che facciamo? Intanto complimenti per come ha cantato. Le posso cantare solo la prima parte, una piccola parte. Maria, scusi un attimo, però posso farle una domanda prima, preliminare? Sì. Quando è stata a Sanremo, è sicura? Sì. Io penso di sì, mi sembra nel 1964, se non sbaglio. Perché noi vogliamo canzoni di Sanremo, lei è stata bravissima, però c'è un regolamento. Ma di quello che so no, sto scherzando, non c'è un regolamento, non abbiamo il notaio, però vogliamo canzoni di Sanremo da cantare questa mattina, da canticchiare, si può fare. Perché nella trasmissione precedente, sì, Conti aveva detto, appunto, l'hanno cantata anche i ragazzi attuali, che sono a Sanremo, che aveva presentato quando sì, è vero. Il Festival di Sanremo del 62. Quindi era andata 62, vicina anche con la data. Brava. Vabbè, comunque bene. Signora, veramente complimenti, ma ci vuole cantare almeno il ritornello della sua canzone o l'inizio, deve rimanere l'inizio. Sentiamo l'inizio. Molto poco, perché deve rimanere un inedito di modo che possa andare l'anno prossimo andare a Sanremo con questa canzone. Allora dice così: si può fare, si può fare, si può fare il bene o il male, ogni cosa si può fare, chi sia bella, più bella del sole. Ma senti che grazia. Signora, lei ci ha regalato la nuova sigla, credo, di Si può fare. Dobbiamo metterci d'accordo, per i diritti, la dobbiamo fare. A me devo dire che l'aria ricordava qualcosa, però senti che... Ricordava un po', dimmi quando tu verrai, dimmi quando. Maria, cosa facciamo? No, adesso intanto dobbiamo fermarci per il traffico, andrei avanti tutta la mattina. No, stavo scherzando, sono ignorante, signora. No. Ricordava tanto quella quanto qualcos'altro, secondo me, un'altra aria che ho sentito, però insomma è legittimo che sia così. Maria, complimenti. Complimenti soprattutto per i suoi 80 anni, veramente, non ha bisogno di dire che ne ha 60, perché dalla voce squillante che ha pensavo che ne avesse 22. Troppo grazie, Sant'Antonio. Beh, andrei avanti così con lei. Resti con noi, traffico, resti intanto con noi, Maria. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, Maria intanto ha messo giù, perché Maria è andata Ancona, a comporre un'altra canzone, un'altra strofa, esatto, della canzone Si può fare. Ma se ci chiama dopo noi sentiamo molto volentieri la seconda strofa di Si può fare, perché forse abbiamo finalmente trovato la sigla, abbiamo la nostra compositrice ottantenne straordinaria. Domenico da Bari, buongiorno, benvenuto anche a lei. Buongiorno a voi. Buongiorno. Sono emozionatissimo, lo dico in primis. Mette le mani avanti, anche lei vuol cantare? Certo, giusto. Allora, io volevo cimentarmi nel famoso successo del trio Morandi, Ruggeri, Tozzi. Si può dare di più? Sì, si può dare di più. Ma ce la canta come Si può dare di più o Si può fare di più, visto che siamo a Si può fare? Faccia lei, fate come volete, io ci da lei, canto. Esatto. Vada Domenico, vada, canti. Via. Vabbè. In questa notte di venerdì, perché non dormi, perché sei qui, perché non parti per un weekend che ti riporti dentro di te. Cosa ti manca, cosa non hai? Cos'è che insegui se non lo sai? Se la tua corsa finisse qui, forse sarebbe meglio così. Mi fermo. Con le imitazioni, con l'emozione. Io ho riconosciuto Ruggeri, no? e l'ultimo era Tozzi. E l'ultimo era Tozzi, ecco. Beh, adesso però faccia anche il ritornello. Siamo emozionati. Dai. Il ritornello ho bisogno di altre due voci, però. Intanto comincia, Domenico, intanto comincia. Allora, 1, 2, 3. Via. Si può fare di più, perché dentro di noi si può usare di più. Senza essere eroi. Come fare, non so, non lo sai neanche tu. Ma bene, Domenico. Eccoci. Prova abbondantemente superata. Domenico, abbondantemente superata, complimenti. Ci ha regalato un altro pezzetto di sigla e ne siamo felicissimi. Oh, ragazzi, senza base non è facile. Grazie, Domenico. Grazie mille. Grazie. Abbiamo già due ascoltatori pluricandidati a vincere. Va bene, adesso, come detto, parliamo di San Valentino. Le meraviglie in questa parte di universo sembrano nate per incorniciarti il volto. E se per caso dentro il caos ti avessi perso, avrei avvertito un forte senso di risolto. Un grande vuoto che mi avrebbe spinto oltre, fino al confine estremo delle mie speranze. Ti avrei cercato come un cavaliere pazzo, avrei lottato contro il male e le sue istanze. I labirinti avrei percorso senza un filo, nutrendomi di ciò che il suolo avrebbe offerto. E a ogni confine nuovo io avrei chiesto asilo, avrei rischiato la mia vita in mare aperto. Considerando che l'amore non ha prezzo, sono disposto a tutto per averne un po'. Considerando che l'amore non ha prezzo, lo pagherò offrendo tutto l'amore che ho. Allora, qualche giorno fa sulla cronaca locale di Bologna è apparso un articolo, un San Valentino diverso, volontari per gli empori solidali. Cercasi volontari per il giorno del sabato 14 febbraio dalle 8 alle 20 per reperire in super e ipermercati della città beni alimentari per rifornire gli scaffali degli empori solidali della città di Bologna. Noi chiediamo a Violetta Cantori, intanto buongiorno. Buongiorno. Organizzatrice di questa iniziativa per San Valentino, se questo appello è andato a vuoto o se avete avuto molte risposte. L'appello è andato a buon fine, direi, molto a buon fine, perché abbiamo ricevuto oltre 160 adesioni da parte di volontari, da parte di cittadini, e la cosa quindi posso dire che è andata benissimo. Bene, complimenti. E cosa chiedevate di fare in questa giornata particolare per testimoniare, credo, anche un'idea d'amore un po' particolare? Assolutamente, noi chiediamo alla città di Bologna di fare un gesto di amore nei confronti delle persone che stanno un pochino meno bene, che in questo periodo sono in difficoltà socio-economica. È per questo che abbiamo aperto gli Empori Solidali di Case Zanardi, che poi è un progetto molto più ampio che vi invito a conoscere sul sito www.casezanardi.it. Sostanzialmente noi aiutiamo le persone che sono 50 famiglie per il momento, ma che con questa colletta puntiamo anche ad ampliare se possibile, e sono persone che sono all'interno del programma nazionale Social Card, che quindi hanno un ISEE inferiore ai 3.000 euro e che insieme al programma di Social Card e a una serie di corsi di formazione e di orientamento al lavoro e la possibilità di fare una spesa gratuita presso gli empori solidali possono cercare di uscire da questo stato di povertà, diciamo. Violetta, in 10 secondi cosa può fare chi vuole aderire a questa iniziativa con generosità? Può recarsi in uno dei punti vendita Coop e Conad, quindi Piazza dei Martiri, Centro Borgo, Centro Lame, Centro Larga, Conad. Coop e Conad di Bologna, benissimo, l'indirizzo non possiamo darli, non abbiamo più tempo. Grazie comunque Violetta Cantori. Grazie mille. Case Zanardi Bologna, un San Valentino diverso. A dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Abbiamo gambe per fare passi, trovarci persi, avvicinarci e poi abbiamo bocche per dare baci, o meglio dire, per assaggiarci. Se un pianto ci fa nascere un senso a tutto il male, forse c'è. io sono pronto a vivere, ti guardo e so perché siamo fatti per. Questa è Fatti Avanti Amore di Neck, canzone in concorso a Sanremo. Ricordiamo anche che Neck ha vinto con la serata delle cover con Se Telefonando, che è stata emozionante, devo dire, quando l'ha ricantata alla fine della, sì, della serata di, non di ieri, dell'altro ieri se non ricordo male, io mi sono veramente emozionato. A me è piaciuto Grignani che cantava Vedrai Vedrai di Tenco, una canzone che parla di un uomo che cerca di non sentirsi un fallito, una canzone strepitosa che era anche l'autobiografia di Grignani. È stato un bel momento, mi è piaciuto. E volevo dire comunque che noi cerchiamo sempre i nostri Si Può Fare in Musica, ovvero delle canzoni che ci potete proporre, che sono la vostra interpretazione con una canzone di un Si Può Fare, o in generale del concetto Si Può Fare. E invece stamattina vogliamo farvi perdere la faccia e dovete cantare. Dovete cantare voi. Devo dire che direi che nessuno meglio di noi ha preso come dogma il claim tutti cantano Sanremo. Infatti facciamo cantare chiunque chiami e ci voglia cantare una canzone di Sanremo. Ricordiamo che i vostri Si Può Fare in Musica ce li potete mandare sui nostri social, quindi Si Può Fare _24 su Facebook, oppure sull'account di Twitter @SiPuoFare24, oppure sul nostro account personale. Il mio è @CarloGabardini e il mio @AleMaurizzi. E allora abbiamo Claudio che ci chiama da Brescia. Buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Io avevo pensato, forse non ha molto a che fare con Si Può Fare, però sì, rispecchia dopo tanti anni ancora l'Italia com'è, e avevo pensato alla terra dei cacchi. Terra dei cacchi, certo. Elio Restore Tese. In concorso, esatto, che anno era? Forse il... Mi 96? 96, 90 qualcosa, mi pare, ho un ricordo personale su quell'anno. Comunque, Claudio, non è che dovete cantarci solo canzoni che contengono Si Può Fare, quindi va benissimo, noi siamo tutti orecchi. Si può prendere coscienza, ecco. Certo. Vuole giusto intonare la terra dei cachi, Claudio? Sì, che comincia piano e dice: parcheggi abusivi, applausi abusivi. Sei già emozionato, Claudio. Partiamo con il ritornello, forse più semplice, o con la parte cantata. Italia no, la strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita. Prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè. C'è un comando che ci aspetta per assassinarti un po'. Comando sì, comando no. Beh, Claudio, poteva anche cantarci Si Può Fare sì, Si Può Fare no. Comunque è del 96. La voce, la canzone, la voce di Claudio ricorda un pochino anche quella di Elio, come tonalità, come intensità. Grazie. Erano vestiti alla fine come i Rocket, confesso, degli anni 80, appunto per un po' per la... Senta qua, Claudio, senta. Il fisagista delle dive. Adesso capisco. È più facile con la base, Claudio, è vero. Sì, con la base. Grazie anche a lei per aver giocato con noi, buon Claudio. Sabato. Buon San Valentino. Con un altro ascoltatore, Augusto da Napoli. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Grazie per avermi chiamato. Piccola pregiudiziale, mi sento 24 ore su 24. Augusto, un attimo però, lei sta ascoltando col viva voce o qualcosa del genere? No, cioè la radio. La radio. Allora spenga la radio, ci ascolti al telefono, se no abbiamo il ritorno. È l'emozione di sentirmi per radio. Ma ci mancherebbe. E consideri anche che è sabato mattina, quindi parole come pregiudiziale, siamo qua tutti che stiamo cercando sui dizionari. Lei cosa voleva, su cosa voleva intervenire, Augusto? Voleva cantare anche lei? La canzone del Festival di Sanremo, Grazie dei fiori, dalla mia veneranda età. Grazie dei fiori, che era di Nilla Pizzi? E Nilla Pizzi la cantava. Vai, Augusto. Grazie dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti, mi hanno fatto male pure li ho graditi, sono rose rosse e paudano d'amore. Grazie ancora. E poi non me ne ricordo più, però Insomma, è una canzone del 51. Sarà la prima edizione forse di Sanremo, può darsi? No. Quasi, sì. Sì, sì, 50-65. Augusto ci ha fatto fare un tuffo nel super passato con una canzone anche questa strepitosa. Vi ringrazio e vi saluto. Bravo. Grazie mille. Bisogna grazie perdere mille la faccia ogni tanto. No, pensavo che avessi trovato intanto Carmelo Rocella, grazie di fior, ma non ce l'avevamo questa portata di mano. Abbiamo invece un altro ascoltatore, Mario da Palermo. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sì. Voleva cantare anche lei o no? No. Volevo suggerirvi qualche cosa che può riguardare un po' tutti, cioè gli emigranti. Sì, ne abbiamo parlato in apertura, sì. Cosa voleva dire Mario? Volevo dire semplicemente che basta un'agenzia internazionale dell'ONU che prende le richieste e che smista le offerte. Sì. Cioè dice al posto della proposta che abbiamo fatto a inizio trasmissione del Vaticano, al posto dell'Italia. Ma dove dovrebbe stare? Perché il problema è anche questo: dove la mettiamo questa sede, diciamo, dell'ONU? Ogni nazione. Nessuno si lamenta. Uno per tutti, tutti per uno. Credo che non vada assolutamente in contrasto con la notizia che abbiamo dato prima, perché giustamente loro ricordavano la nostra è più che una provocazione, diciamo un simbolo, che proponevano che il Vaticano mostrasse il fatto della possibilità di dare dei visti. Ovviamente non è che chiedessero realmente al Vaticano di occuparsi di questa questione, quindi forse la soluzione giusta è quella che sta proponendo lei. Beh sì, l'ONU è quello che veramente ha in capo con la questione del commissariato per i rifugiati, eccetera eccetera, questo tipo di questioni. Va bene, 800 24 00 24. Noi siamo partiti stamattina da questa petizione che chiede comunque al Vaticano di intervenire in qualche modo con i suoi nunzi apostolici in tutte le zone di guerra e di conflitto per aprire questo corridoio umanitario di cui si parla, ma nessuno sa come fare. Ci fermiamo per il traffico, poi torniamo e vogliamo ancora ascoltatori che canticchino con noi perdendo la faccia la loro canzone di Sanremo. 800 24 00 24. Mi capita ogni giorno appena sveglio, mi sento le vocine nel cervello. Prendilo, giralo, spostalo, ammazzalo, non so neanche se parlano di qualcun altro, parlano di me. Qualora così fosse resterebbe da capire se ce l'hanno con me stesso. 0, 1, 2, 3. Siamo in tanti e la capa di morte è piccola. La gente mormora, io sento le vocine nel cervello. Ogni mattina ma mattessa una cravatta che ballino, cazzone, la giacchetta blu marina, indunata con scarpina marroncina, calzette seta fine, poi facessa la rapina in un grande magazzino. Allora, questa cortocircuito di 99 posse, questa settimana è uscita la classifica di Reporter Senza Frontiere che dice che l'Italia arretra di 24 posti nella classifica della libertà di stampa. Ci picchia. Direi che siamo quindi alla fine. Alla frutta. No, non è una cosa altri lusinghiera. 24, non credo che partissimo dalle prime posizioni. Se ne abbiamo perse altre 24, ho la sensazione che stiamo vedendo... Non siamo messi benissimo. Noi invece siamo andati a trovare chi fa la sua parte in questo senso, e sono proprio i ragazzi di Corto Circuito. Buongiorno a Elia Minari, coordinatore della Web TV di Corto Circuito. Buongiorno a voi. Buongiorno. Allora, una iniziativa che viene da Reggio Emilia, che nasce come un giornale, prima un giornale universitario, poi diventa anche una web TV, e che sceglie di documentare in particolare tutto quello che ha a che fare con la legalità e con la lotta alla mafia in una terra dove di mafia si parla forse da meno tempo che altrove. È così, Elia? Sì, esatto. Dal 2009 abbiamo cercato, quando ancora addirittura era un giornale studentesco delle scuole superiori, ecco, ora invece facciamo l'università, abbiamo cercato di documentare dei temi secondo noi troppo spesso ignorati, taciuti e sottovalutati, in particolar modo la criminalità organizzata in Emilia Romagna. Avete tra l'altro l'anno scorso, se non ricordo male, ricevuto anche un premio, il premio Scomodo, ve lo ha dato il presidente del Senato Grasso. Esatto. Un riconoscimento, cioè, vi avrà fatto ovviamente piacere. Sì, no, beh, sì, è stata, diciamo, una gratificazione anche per quanto fatto. Ecco, poi quello che abbiamo cercato di realizzare, sì, sono poi dei semplici cortometraggi, delle videoinchieste, partendo, diciamo, non dalle nostre opinioni, ma dai documenti. Così abbiamo cercato in questi anni di mettere in fila le delibere comunali, le misure delle camere di commercio, le interdittive antimafia, i dossier, gli atti giudiziari, per cercare di capire quanto stava accadendo e far luce su alcuni appalti pubblici della nostra regione. Io credo che voi facciate un lavoro stupendo, scusami, sono lo stupido dei due io. Facciate un lavoro stupendo soprattutto perché siete partiti da minorenni, appunto, da un giornalino studentesco, e forse quello è il modo per mettersi nelle condizioni di poter dire quello che si vuole. Forse molti altri giornalisti, anche delle vostre parti, certe cose non si mettono a dirle, non hanno il coraggio di dire, invece voi avete trovato questa chiave. Ma voi volete fare i giornalisti da grande? Beh, questo francamente non lo sappiamo, ecco, innanzitutto il progetto nasce come un progetto di cittadini non indifferenti, cittadini che vadano a guardare quanto sta accadendo, ecco, poi ognuno da grande poi prenderà, diciamo, le sue strade, ma nasce innanzitutto dal bisogno, credo, ecco, senza voler insegnare nulla a nessuno, però dal bisogno di capire quanto sta accadendo intorno a noi e anche dare, diciamo, il nostro contributo, soprattutto non essere indifferenti rispetto a quanto accade. È giusto, ma non potete abbandonarci, cioè quando diventate grandi non è che potete improvvisamente uno si mette a fare l'architetto, l'altro l'avvocato e il terzo l'economista, se no vi vietiamo di studiare. Dovete, e vi obblighiamo a rimanere in redazione. Dovete, è un appello affinché continuate a fare quello che state facendo. Tra, sì, l'altro avete contribuito anche ad aprire dei casi poi giudiziari, per esempio raccontiamo anche delle cose concrete su cui avete lavorato, delle inchieste che avete fatto, perché appunto, ripeto, la mafia, ormai lo sappiamo purtroppo, la criminalità organizzata non è solo in alcune zone d'Italia, ma è un po' da tutte le parti, anche al nord, al centro nord, dove ci sono attività economiche. Voi appunto avete anche contribuito a portare alla luce certi fatti. Ci vuoi raccontare qualcuna di queste storie? Sì, diciamo che abbiamo realizzato appunto diverse di queste videoinchieste e ad esempio praticamente l'ultima videoinchiesta dal titolo La 'ndrangheta di casa nostra, radici in terra emiliana, è stata anche proiettata in tribunale a Reggio Emilia da parte del pubblico ministero della direzione distrettuale antimafia in un'operazione di sequestro di beni a carico di Francesco Grande Aracri, già condannato in via definitiva per mafia. E diciamo che sicuramente, ecco, quindi è stato anche un elemento per noi di gratificazione. In quel cortometraggio cercavamo di mostrare l'esistenza di certe connivenze e molti anche silenzi, perché ciò che emerge da questa maxi operazione che ha portato 117 arresti è un coinvolgimento di soggetti insospettabili, imprenditori, diciamo, non soltanto che parlano dialetto calabrese, ma imprenditori che invece parlano dialetto emiliano, imprenditori del nord, e addirittura sono finiti in manette alcuni esponenti delle forze dell'ordine. Un giornalista anche è stato arrestato recentemente, per cui ciò che emerge è una ragnatela che abbiamo cercato, ecco, nel nostro piccolo dimostrare in alcuni suoi aspetti, ponendo innanzitutto delle domande, però spesso la realtà davanti alla quale ci siamo trovati, sì, è anche più impressionante di quanto ci aspettassimo, francamente, ecco, lo dico anche da ragazzo nato in Emilia, comunque mi era stato raccontato che ero nato in una terra nella quale i diritti, la legalità e la democrazia non erano mai in discussione. persone, per cui tutto ciò sicuramente è impressionante e per questo ho dovuto anche un po' mettere in discussione i miei pregiudizi, i luoghi comuni. Quanti siete lì, scusa Carlo, quanti siete a lavorare a questo progetto di cortocircuito? Quante persone gravitano attorno? Una decina circa. E quali sono però, ecco, questo mi incuriosisce, sì. Tutti studenti, ecco, comunque. Tutti studenti, le motivazioni che vi spingono a partecipare a un progetto come questo, a, insomma, a voler dare luce a questi argomenti, argomenti dei quali, come diceva anche prima Carlo, non è scontato che uno insomma, si voglia immischiare anche in queste faccende, non è assolutamente scontato, anzi. Ma il tutto è iniziato, come dicevate anche voi, un po' tra virgolette per caso, poi vedevamo che gli elementi erano sempre più impressionanti, così abbiamo cercato di andare avanti a comprendere quanto stava accadendo, anche perché secondo noi non si poteva, ecco, stare a guardare. E oltre a questo abbiamo affiancato poi anche degli incontri con la cittadinanza, con ospiti magistrati, proprio per trasmettere il messaggio, secondo noi importante, che ogni cittadino può scegliere, bastano queste due parole, basta scegliere. So che può sembrare un po' retorico, però ad esempio ogni cittadino può scegliere quali locali frequentare la sera, può scegliere a chi fare fitturare casa propria, può scegliere se accettare una raccomandazione, una scorciatoia, un compromesso, può scegliere quali prodotti acquistare al supermercato. Non mi sembra retorico per niente, se posso dire, non mi sembra retorico per niente, anche perché è proprio con le azioni quotidiane che si cambiano le cose, quindi anche sapere semplicemente che quel locale forse è immischiato e uno decide, io non vado lì, preferisco andare in un altro locale che so che non ha quel tipo di implicazioni. Volevo chiederti una cosa in realtà, come sono le reazioni dei vostri concittadini e soprattutto insomma, se avete ricevuto anche diciamo minacce o intimidazioni o consigli? Consigli velati a smetterla? Beh, quando abbiamo iniziato nel 2009 a Reggio Emilia, alla nostra città, c'è chi ci diceva che le iniziative antimafia rovinavano l'immagine della nostra regione. E più recentemente, alcuni mesi fa, c'è chi ci ha addirittura accusati di aver creato danni al turismo per aver parlato di 'Ndrangheta a Brescello, certo. Paese sulle rive del Po, come se la colpa della mafia fosse di chi parla della mafia. Certo, ma esattamente. Ovviamente non tutti la pensavano così, ecco, ci sono stati anche cittadini attivi che hanno denunciato certe situazioni, però sì, invece c'è chi ci ha invitato caldamente a cambiare argomenti. Ad esempio, un imprenditore edile alcuni anni fa ci aveva anche intimato in modo diretto, invitandoci al silenzio. Oggi questo imprenditore si trova in carcere. Elia, prima citavo la classifica di Reporter Senza Frontiere, il fatto che l'Italia ha perso posizioni nella classifica della libertà di stampa. Dal tuo e dal vostro punto di vista ti voglio chiedere, pensi che i giornali ufficiali, insomma, le radio, le televisioni, chi fa informazione oggi in Italia rispetto, diciamo, ai pochi mezzi che avete voi, venga un po' meno a volte al suo dovere di informare e di fare luce, per esempio, su cose scottanti come le illegalità, la mafia, la criminalità, lo pensi? Ma credo che ci siano sicuramente diversi problemi, oltre ovviamente, nel senso, non bisogna fare neppure generalizzazioni, perché c'è anche chi nei media tradizionali fa buone informazioni, informazioni d'approfondimento, però diciamo che spesso anche semmai manca il tempo, oltre a possibili conflitti di interesse di natura politica ed economica che in alcuni casi, ovviamente senza generalizzare, possono sorgere e limitare anche in un certo senso la libertà. A volte forse la prudenza è eccessiva, forse bisognerebbe, stando ai fatti, stando ai documenti, cercare di capire meglio. Certo, a volte non è facile, anche perché comunque questi documenti sono di una certa rilevanza. Ad esempio, l'ultima operazione antimafia Emilia, comunque si tratta di un mallocco di 1400 pagine, ma anche molto intense da capire, per cui comprendo che non sia facilissimo. Ci vorrebbe, credo, semmai uno sforzo in più anche per l'interesse comunque dell'approfondimento, che può portare anche a diciamo, ad elementi nuovi e interessanti. Altro che dare un esame, 1400 pagine, insomma. Elia, un'ultima cosa che voglio chiederti: come fate a mantenervi? Cioè, avete una sostenibilità anche economica? Riuscite di fare di questa attività, che è un hobby, una passione, una forma di volontariato, non so come definirla, ma è anche un impegno, e visto i risultati che state raggiungendo, sarebbe giusto che fosse anche premiato. Beh, diciamo che abbiamo anche rinunciato ad alcuni sponsor, perché diciamo che alcuni sponsor semmai tendevano anche a condizionare, ecco, anche la nostra attività. Alcuni sponsor, ad esempio, di imprenditori edili, certo, locali, è molto chiaro, semmai altri interessi. Beh, se erano, certo, se ti fai sponsorizzare da quello a pagare che ha qualunque cifra, esatto. Posso ti leggo solamente rapidissimamente, sì, un messaggio, perché dice: la voce di questo ragazzo e le sue idee mi fanno pensare che si può fare, che si può cambiare semplicemente scegliendo l'onestà. È di Andrea e volevo leggertelo, che mi sembra così vi convincete a non mollare il colpo e purtroppo smettere di studiare altre cose, perché voi dovete fare i nostri cronisti. Grazie Elia Minari. Beh, grazie. E complimenti, coordinatore della Web TV Cortocircuito di Reggio Emilia. Una bella storia nella settimana in cui appunto Reporter Senza Frontiere ci ricorda che abbiamo perso posizione nella classifica della libertà. È per questo che bisogna bocciarli all'università, di modo che continuino e ci facciano risalire nella classifica di almeno altre 24 posizioni. Poveracci, perché devi farli bocciare all'università? Se è troppo, tu dici, in effetti, di anche augurargli di essere bocciati forse è troppo. Forse è troppo. È vero, no, possono anche essere laureati e dopo fare i giornalisti. 800 24 00 24, cari ascoltatori, ci risentiamo tra un attimo. Sentirsi come un papa senza santi da pregare, si può fare. Ed avere tanti soldi da poterseli rubare, si può fare. Eccoci qua di nuovo in diretta, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno a tutti. Si allora, può fare. Ora si può fare in musica, tra poco sentiamo se qualcun altro canticchia insieme a noi la sua canzone di Sanremo e poi Carlo intanto da Modena, buongiorno. E buongiorno. Buongiorno. Io a proposito dell'intervento del giornalista in erba di Reggio, volevo dire, sì, che commercianti e artigiani spesso sono vittime dei racket, non sono, sì, loro che sono cattivi. Quando si dice evitiamo di far spesa o di, diciamo, di acquistare in certi centri, sì, o presso certi artigiani, dobbiamo, no, questo pensare è vero, questo che è vero, come la prostituta, Carlo, non stanno lì per scelta, stanno lì perché qualcuno dice o così o ti ammazzo tuo figlio, o ti spacco qua o ti rompo il negozio. Allora sono persone per bene che sono purtroppo vittime due volte, non andiamo a fa spesa da loro e li roviniamo, e nello stesso tempo il racket li ricatta e prende il però piccolo. Carlo, no, questo è vero, è molto delicata questa questione. Stavamo parlando in realtà di un'altra però questione, nel senso che stavamo parlando dei locali invece che si dice che sono di proprietà di chiedevo proprio questa distinzione. Esatto, ha ragione, a dirlo, giusto, perché io vivo in Sicilia da immigrato quasi, sì, e conosco tantissima gente appunto assolutamente stimabile come nella mia città d'origine, che però dice o così o io che faccio. No, ha ragione, C'è anche un altro tema però, che è questo: a fronte delle stesse minacce o delle stesse richieste, per esempio di pizzo, ci sono imprenditori che denunciano, si ribellano e quelli sì, bisogna sicuramente aiutarli. Ecco, certo, dovete fare quello perché sì, la solidarietà anche nostra li aiuta. È importante. Giustissimo. Grazie, è un Carlo. Giusto distinguo. Grazie. Prego, per prego, averci chiamato su questo argomento, che naturalmente non vuole cantare ancora la canzone? No, è caduto intanto. No, magari no, forse non era il tema giusto, però vabbè, no, si può cantare una canzone. Beh, c'era quella di, come si chiama, di Moro, che era Pensa. Aldo Moro? No, di Fabrizio Moro, il cantante, il giovane cantante, poi credo sostanzialmente sparito, che aveva fatto una bellissima canzone in tema di legalità. Poi c'era quella di Faletti, che era strepitosa. Francesca da Varese, buongiorno. Pronto, buongiorno. Buongiorno. Allora, io volevo raccontare che praticamente la mia canzone è sempre stata la mia canzone di Sanremo per sempre, Montagne Verdi di Marcella. Perché? Perché ero praticamente bambina, e sì, è una canzone che è del 72, del così 1970. Ci rivela anche un po' l'età, Francesca, cosa che le donne beh, non fanno mai. Non è un problema, non è un problema. No, vabbè. Nel 72, appunto, quando è uscita Montagne, sì, Verdi, io praticamente ero alla fine delle elementari. Ma è stata cantata a Sanremo questa canzone, in anteprima? Sì, non aveva vinto, però aveva vinto un casino di dischi, mi ricordo tantissimo. comunque il fatto è che io praticamente in quegli anni lì ero piccolina, i miei genitori non avevano la possibilità di portarmi al mare, no, d'estate. Allora andavo con la colonia a Cesenatico, erano le colonie sull'Adriatico, no? E ci andavano tanti bambini, era molto certo. Bello. E le vigilatrici, cioè che erano poi le signorine che ci curavano noi bambini, sì. Però è bello chiamarle. Ricordo, avevano organizzato una specie di contest e io mi ero esibita proprio con Montagne Verdi. Che anno era, scusi? Scusa Francesca, com'è? Che anno era? Ma sarà stato l'anno dopo, non 72, era 72, 73. 73 metta. Avevo circa 11 anni, una roba così. Adesso ormai a sono passati più di 40, 40 anni. Anni di distanza Francesca vuol esibirsi di nuovo, sì, con Montagne Verdi. Giusto. Alessio ed io saremo le sue vigilatrici e adesso lei ci deve cantare Montagne Verdi, la sua canzone del cuore. Assolutamente. Allora, mi schiarisco un attimo la voce. Allora, mi ricordo Montagne Verdi e le corse di una bambina, con l'amico mio più sincero, un coniglio dal muso nero. Poi un giorno mi prese il treno, l'erba e il prato e quello che era mio. Qua ci sono le braccia in alto, arrivano piano piano, e piangendo parlai con Dio. Quante volte ho cercato il sole, quante volte ho mangiato sale, la città. Ma il ritornello non arriva mai? Guardi, io sognavo montagne verdi. Il mio destino, ecco, è di stare accanto a te. E così via. Ma complimenti, signora, complimenti. Stamattina Radio 24, straordinari momenti, straordinari. Francesca, complimenti. Arrivederci, grazie. Grazie. Ci ha emozionato veramente. Direi questa volta quasi più per il racconto di come nasce questa sua amore per questa canzone Montagne Verdi che per l'esibizione. Che com'era, Carlo? Dobbiamo dirlo, dobbiamo sbilanciarci. Com'era questa qua? Sull'esibizione, ma io l'esibizione di musica non redazione, non poi niente. Dobbiamo cominciare un po' a selezionare e a premiare l'originalità, ma anche l'esecuzione, la rapidità d'esecuzione. Io sono comunque, il mio cuore al momento batte per Anna D'Ancona, lo so, sì, anche il mio, batte per di Anna tutti e stamattina. I suoi splendidi 80 anni. E il fatto che finga di averne 60 per riuscire a parlare. Era Maria? Ho detto Anna? Maria D'Ancona. Ah, Maria, poi chiedo scusa. Si emoziona. E no, si arrabbia, secondo me non si emoziona. Si arrabbia, chiama e ti canta un'altra canzone. Va bene, da Le Montagne Verdi ad una canzone di oggi, di questo Festival di Sanremo, perché lì tra poco andiamo con la nostra Marta Cagnola. Cosa sentiamo? Sentiamo la canzone di Grazia Di Michele e Mauro Coruzzi, direi. Sono una finestra velata di vapore in questa notte gelida, deserta ed incolore. Rispecchia la finestra la carne, le emozioni di me che sono specchio delle contraddizioni. Difficile vedere se il vapore non svanisce l'appiccicoso errore di chi non capisce. Eppure si riflette un'ombra che è la mia, un'ombra di rossetto contro l'ipocrisia. Io non so mai chi sono, eppure sono io, anche se oltre il vetro per me non c'è mai un Dio. Ma questo qui è il mio corpo, benché cangiante e strano, di donna dentro un uomo, eppure essere. Marta! Eccoci, stavo cantando. Eccola, cosa stavi qua cantando? La tua canzone di Sanremo o questa stavi cantando? Allora, no, questa sicuramente. La mia canzone di Sanremo, a parte che voglio dire che la signora che ha cantato è bravissima. Ma questa brava, di Montagne Verdi? Sì, sì, sì, io ti posso dare, ho sentito solo lei, sì. Però posso dire brava. Io invece l'avevo messa tra quelle meno brave. Pensa, abbiamo avuto degli interpreti strepitosi. Allora, abbiamo avuto interpreti strepitosi. Allora facciamo che mi scarico il podcast quando è online. Giusto. E poi me li ascolto tutto e poi vi dico la prossima settimana. Cosa perfetto. Senti, ma invece stavi canticchiando questa canzone che è, noi abbiamo scelto questa perché insomma, in linea un po' con Si può fare, abbiamo cercato una canzone, non so, l'anno scorso c'era entrata in testa e sempre rimarrà quella di Frankie Energy, Pedala, perché era la nostra canzone di Sanremo. Quest'anno e la usiamo tutte le volte che abbiamo da parlare di biciclette. Esatto. Quest'anno non so se questa potrebbe essere la nostra canzone di Sanremo. Che ne pensi intanto di questa esibizione? Allora, io penso, di questa che ha fatto discutere un po'. Io mi sono molto emozionata perché, conoscendo abbastanza Mauro Coluzzi, cioè Platinette, ho subito pensato che per lui fosse salire su quel palco un momento desiderato da una vita, anche se uno di quei desideri che non dici mai ad alta voce neanche a te stesso. E infatti quando l'ho visto salire sul palco per la prima volta in prova ha sbagliato tantissimo tutto, perché tutto sentiva proprio l'ansia, fortunatamente era la prova non, perché l'ansia di quando realizzi un desiderio, e quindi anche questo è molto in tema, Si può fare, perché era chiaramente una cosa che lui sognava da tanti anni ed è stato molto molto molto bello. In tema Si può fare anche una delle tre canzoni che io amo particolarmente in questo Sanremo è quella di Marco Masini, perché vivere, cadere, vivere, rialzarsi, vivere, ragazzi. Ecco. Allora da domani mettiamo questa, Masini, segniamocela, perché io fra l'altro non l'ho sentita. E invece ieri sera, l'ho sentito un pezzettino ma non sono riuscito a metterla a fuoco. Invece ieri sera abbiamo premiato la nuova proposta, un derby tra l'altro tra nomi impronunciabili, Icuzzo contro Caccamo, cioè è stato un momento... Però, una battutaccia, i Cuzzo erano finiti in finale con Amara e siccome in realtà Cuzzo non si pronuncia così, diciamo che si pronuncia all'inglese, si pronuncia con la A, beh insomma, grazie Amari, la dico io così. Avevamo paura che Carlo Conti si sbagliasse, ci scivolasse sopra Panfete, e invece lui imperturbabile, e ha vinto invece Giovanni Caccamo. Vabbè insomma, questa canzone è bellissima, è super premiata, è piaciuta a tutti, a me è piaciuta moltissimo, a me ha ricordato Battiato a un certo punto, non so, forse perché è siciliano, Battiato. No, perché è la scoperta di Franco Battiato. Alessio, ma mi sei un esperto di musica? No, ma è proprio la sonorità, questo ritmo, è una canzone particolare. Lui è stato scoperto da Franco Battiato, ma soprattutto... Giuro che non lo sapevo. Battiato... ma bravo, sei stato. Imita Franco Battiato in maniera divertentissima. Cioè fa proprio Fa proprio l'imitazione. Uguale. È un burlone, perché ieri alla premiazione ha preso Carlo Conti, l'ha tirato su, l'ha abbracciato, ha fatto un po' di burla. Però adesso dobbiamo anche andare sulle note amare, perché facciamo un po' di cronaca di Sanremo. Ci sono già quattro eliminati e sono quattro personaggi questi qua, perché vabbè, tutte le vedove inconsolabili, che non ci sarà Raff nella finale, perché vabbè, però sai che siccome Raff era tanto malato, perché purtroppo non è mai riuscito a cantare bene la canzone, hanno tutte detto vabbè insomma, però così perlomeno si riposa. Ah, ecco, vedi, hanno trovato per dargli un giorno di ferie, poverino, che non si sciupi. Sì, povero. Esatto. Beh, comunque è finito anche all'ospedale, poverino. Alla bronchite, infatti non è mai riuscito a cantare bene. Ma tutta la linea di Conti mi è sembrata delle eliminazioni, dicendo di ogni cantante comunque venderà i dischi, comunque non è un problema. È la prima volta che la sento così precisa, come per dire comunque quelli che hanno perso non soffriranno più di tanto, cioè sembrava un po' come per dire hanno degli altri impegni. Quando lo condurra Gabardini già me lo vedo a dire, beh in effetti però questa canzone non era granché, quindi insomma. No, non volevo dire fatto questo, bene andare a casa. Un po' dava la sensazione come per dire questi hanno altri impegni e quindi è giusto che vadano via un giorno prima dal festival, avevo questa sensazione. Sì. Senti Marta, facciamo che resti ancora un attimo con noi, facciamo il traffico, se no poi andiamo troppo lunghi e poi torniamo tra un attimo, commentiamo, perché ci sono tra gli eliminati Tatangelo, Biggio e Mandelli, mi devi spiegare perché hanno fatto questa canzone Cochi e Renato Re-edition incomprensibile 30 anni dopo, e poi soprattutto a me personalmente devi dire devi spiegare chi è e chi era o chi sarà Lara Fabian o Fabian, che stava tanto male, stavano male anche quelli che l'ascoltavano. Traffico. Porta ancora il mio sole, scoprire il mondo che c'è, niente che non sa. può fare. Non si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo con Marta Cagnola da Sanremo, il giorno insomma dell'ultima serata della finale. Io però devo dire una cosa, non sono un esperto di musica assolutamente, però credo che se vai a Sanremo con una canzone che si intitola, come si intitola quella della Fabian, Sto male? Ma no, cioè, ma sai, si soffre a Sanremo, però di solito si soffre per amore. Lo so. No, però io dico, anche i cantanti che io amo molto, malinconici, quelli più tristi, tipo, non so, Claudio Lolli, Luca Carboni, quelle canzoni malinconiche, non hanno mai detto così, sto male. Cioè, almeno una perifrasi, almeno una perifrasi. No, ma Sto male era la cover, la canzone di Ornella Vanoni. Sì. La sua canzone in realtà si intitola Voce, perché lei effettivamente ha una splendida voce. In realtà Lara Fabian era la star internazionale in gara che ci avevano promesso. Effettivamente quando abbiamo detto che era Lara Fabian abbiamo detto vabbè, allora, cioè nel senso, allora, non era tutto Madonna, finito. Ecco. Perché è belga lei, giusto? Allora sì, lei è belga ma canadese, esatto, come nazionalità. Ha venduto tantissimi dischi perché soprattutto lei è la cantante di questo adagio, che è la canzone diciamo più cantata dalle cantanti italiane nei talent show. E quindi la imitano tutte. E poi ha fatto un pezzo molto malato con Gigi, molto malato, molto famoso, Un cuore malato con Gigi D'Alessio, e vedi che torna, no? Sto male, cuore malato. E quindi era piuttosto popolare per per quell'altro pezzo lì. Ma poi italiano, ha venduto, diciamo, milioni di dischi comunque lei nel mondo, in Francia, sì, Spagna. Ha venduto davvero tanto. Sì, sì, sì. Senti Marta, ma e invece chi vince? Chi vince? Allora, diciamo che le scommesse sono tutte puntate sul volo, perché la loro popolarità internazionale, il fatto che i loro fan potrebbero televotare in massa, eccetera. Devo dire anche che perché sono tre, quindi avranno più amici. Le famiglie, dici. Certo. No, devo dire che le quotazioni secondo me stanno salendo in questo festival, e io ne sono molto felice per due cantanti che io amo tanto, che sono Nek e Marco Masini, perché io da gennaio, da quando ho sentito le canzoni, ho stressato tutti, anche in redazione, dicendo Nek Marco Masini, e fortunatamente tutti hanno capito che sono due canzoni che hanno grandissime potenzialità. Io personalmente spero e sogno, giuro non so ancora niente, che Malika Ayane si porti a casa qualcosa tipo il premio della critica. Beh, direi che è buono, abbiamo un mezzo pronostico. Siamo un po' come Conti, cerchiamo di avere una parola buona per tutti. Grazie Marta! Grazie, okay, mille. Presto, ci sentiamo domani mattina, poi vediamo. Una canzone per domani, allora. Sì, grazie. Assolutamente. Ciao Marta. Ciao, buon lavoro. Allora, cari ascoltatori, non so se abbiamo ancora il tempo di far canticchiare qualcuno, non credo, forse sì. Adesso però vi vogliamo dare un appuntamento di carnevale, per un carnevale particolare. Siamo a Satriano, in Lucania. Vai! L'appuntamento è questo, il carnevale di Satriano in Lucania, un carnevale particolare perché tutti possono partecipare per creare uno scenario in movimento particolare, una foresta che cammina formata da uomini albero, un carnevale che insomma ha avuto più citazioni forse che nel mondo che partecipanti, perché è stato molto apprezzato e appunto citato. Ne parliamo, diamo il buongiorno con Rocco Perrone, organizzatore proprio di questa manifestazione. Buongiorno. Un saluto a tutti i radioascoltatori, grazie dell'invito. Ci mancherebbe, grazie a lei. Ci curiosisca. Allora, noi abbiamo una maschera tipica che è il rumita, in italiano eremita, ed è un uomo albero, un uomo completamente ricoperto di foglie di edera. Perché l'edera? Perché l'edera è presente nei boschi circostanti Saturno di Lucania. E la tradizione vuole che questo uomo albero, la domenica prima del martedì grasso, gira per le strade del paese e bussa alle porte delle case con un pungitopo, cioè con un fruscio, un ramo con all'apice un pungitopo. Il pungitopo è un'altra pianta molto presente nei boschi circostanti Satriano. Quindi con questo fruscio bussa alle porte delle case, sì, chi riceve, sì, la visita del Romita riceve un buon auspicio e in cambio gli dona qualcosa. Noi da un paio d'anni abbiamo pensato di innovare questa tradizione e appunto diamo la possibilità a chiunque voglia di diventare uomo albero per un giorno e di diventare Romita. E in questo modo mettiamo in scena una foresta che cammina, composta da 131 uomini alberi, il numero molto simbolico perché sono esattamente i paesi della Basilicata. Ma camminano tutti insieme o ognuno cammina per i fatti suoi e va a bussare alle porte? Noi organizziamo il carnevale cercando di lasciare il massimo spazio alla spontaneità, altrimenti non è più carnevale, quindi li aiutiamo a vestire e poi ognuno può fare quello che vuole praticamente. Quindi la giornata clou è domani, se ho capito bene. No, domenica prossima. Oggi, tra poche ore la foresta si metterà in cammino, li stiamo già vestendo nel Bosco Spera. Avevo capito di domenica. E tra l'altro avete avuto una citazione, dicevo, al MoMA di New York con un'installazione che ha messo in scena 100 di questi Romita, è vero? Esatto, cioè la tradizione è domenica, ci sono i Romiti spontanei, c'erano organizzati, sì, che vanno in giro casa per casa. Oggi è la foresta che cammina. Il Bello. Regista Michelangelo Frammartino, insomma, ci ha aperto gli occhi perché ci ha fatto capire quanto fosse evocativa la nostra maschera. Perché guardare Romita spiega meglio di mille parole il rapporto indissolubile, il rapporto fortissimo che c'è in Basilicata fra uomo e natura. E dicevamo, lui nel 2012 ha messo in gioco la nostra maschera e per la prima volta ha vestito 100 Romiti tutti in una volta. Noi abbiamo preso spunto da questa cineinstallazione, abbiamo fatto diventare il cinema una tradizione. E appunto la sua cineinstallazione Alberi è stata presentata in anteprima internazionale a Roma, New York. Dobbiamo chiudere. Grazie mille a Rocco Perrone. Grazie mille. Salutiamo anche il regista Michelangelo Frammartino. Abbiamo davvero pochissimo tempo. Un ringraziamento a Miriam Lucchetti, Claudia Scattone in redazione, Daniele Bonamici in assistenza in redazione oggi, Carmelo, Lauricella in regia. Dobbiamo premiare Maria da Ancona, vince, esatto, lei il nostro ballettaggio. Che magari richiamiamo domani. Domani continuiamo a cantare le canzoni di Sanremo con gli ascoltatori. Vai, continuiamo a premiare. Buon sabato da Carlo Gabardini e Alessio Maurizi. Ciao.